Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. E lui è morto perché non è stato una marionetta in mano a quella persona. Insomma, è un inizio naturalmente molto molto triste, molto mesto, perché è sempre in primo piano, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, la strage di ieri al Tribunale di Milano che ha lasciato tutti scioccati. Questa era la mamma, la povera mamma dell'avvocato che è stato ucciso, una delle tre vittime, insomma, dell'imprenditore Giardiello ieri, un giovane avvocato, neanche 35enne, e abbiamo sentito in parte un passaggio piccolo di quello che ha detto oggi la madre alla commemorazione in tribunale delle vittime. Quindi ci soffermeremo sicuramente ancora su questo argomento, ma soprattutto sull'aspetto della sicurezza. Ci sono moltissime polemiche, interrogativi, e ci si chiede anche se sia giusto incrementare fortemente queste misure di sicurezza, per esempio anche a Milano in vista dell'Expo, oppure se queste misure portate un po' all'estremo possano rendere disagevole anche accedere ai luoghi pubblici e quindi in realtà essere poco utile, anche perché probabilmente le cosiddette schegge impazzite non sono prevedibili e non possono essere bloccate. Cosa pensate? Che si debbano aumentare nei luoghi pubblici, che appunto può essere un tribunale, può essere una stazione dei treni, le misure di sicurezza, oppure ritenete che siano sufficienti e che un singolo che impazzisce, che ha delle intenzioni omicide, non si possa comunque bloccare anche con tutte le misure di sicurezza possibili? Lo sapete, ci sono sempre i vostri due canali di intervento qui a Effetto Notte, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, quindi nel programma, oppure potete mandare gli sms al 349-238-6666. Quindi in particolare vi chiedo di intervenire su questo, poi parleremo naturalmente anche del DEF, che è al vaglio del Consiglio dei Ministri, che è iniziato un po' in ritardo, oggi è slittato per una serie di motivi. Ce ne occuperemo. Parleremo anche di una novità sull'eterologa, la fecondazione eterologa. Sapete che è da un anno circa che la Corte Costituzionale ha detto che era incostituzionale bloccarla, l'eterologa, quindi adesso si può tranquillamente utilizzare nel nostro paese, solo che tutte le regioni fanno pagare un ticket da 500 euro, mentre la regione Lombardia, se vi ricordate, aveva detto no, noi lo faremo pagare per intero. Bene, il Consiglio di Stato ha bloccato questa delibera della Lombardia dicendo che è discriminante. Parleremo di questo argomento, andremo anche negli Stati Uniti con un collegamento, perché Hillary Clinton ha ufficializzato la sua corsa alla Casa Bianca per le prossime presidenziali, e poi c'è il disgelo ulteriore tra Stati Uniti e Cuba. Insomma, un sacco di cose. Io intanto vi riepilogo la giornata. Il documento di economia e finanza, slittato il CDM, il Consiglio dei Ministri, è cominciato circa un'ora fa, verso le 20. Dal tesoretto arriva 1,5 miliardi, 1,5 miliardi per il welfare, per lo Stato sociale. Renzi vuole le ultime limature al testo, ma Brunetta attacca, governo nel caos. La strage al Tribunale di Milano, domani l'interrogatorio del killer. I magistrati dicono paghiamo l'isolamento e continua il dibattito sulla sicurezza. Stati Uniti, Hillary Clinton ha deciso, correrà per la Casa Bianca, e domani ci sarà l'incontro tra Obama e Raul Castro. Francia, bufera sul Front National, Marine Le Pen indagata per finanziamenti illeciti, il padre minaccia battaglia. Fecondazione eterologa, il Consiglio di Stato blocca la delibera della Lombardia che fa pagare per intero il servizio, il motivo crea discriminazioni. Calcio, addio ai gol fantasma, nella finale di Coppa Italia debutta l'occhio di falco. E partiamo quindi dall'economia, col Consiglio dei Ministri che, vi dicevo, è slittato un po', che deve varare questo Consiglio dei Ministri il DEF, il documento di economia e finanza. È slittato in giornata, è iniziato circa un'ora fa, vi dicevo. Alla base di questo rinvio ci sarebbe la richiesta di Renzi ai vari ministeri di ripulire i testi da doppioni, inesattezze, per coordinarli. L'obiettivo, avrebbe spiegato Renzi, è di inviare entro 24 ore il DEF alla Commissione europea nella versione definitiva. Dal canto suo però fonti europee dicono che non c'è nessun obbligo di mandare il DEF entro la mezzanotte. Fra gli elementi comunque principali di questo documento ci sarebbe un bonus da circa 1,5 miliardi da destinare a misure per il welfare o Stato sociale, come volete. Sarebbe questa, a quanto si apprende da fonti di governo, la destinazione che Matteo Renzi vorrebbe dare alle risorse aggiuntive che sono state individuate in sede di stesura del DEF. Però l'opposizione attacca. Brunetta, in particolare di Forza Italia, dice Renzi vuole comprarsi in questo modo le regionali come fece gli europei con gli 80 euro. Ma approfondiremo tra poco questo tema. Invece adesso andiamo sulla sparatoria di ieri al Tribunale di Milano. Potrebbe essere contestato il reato di strage a Claudio Giardiello, l'imprenditore brianzolo che ieri ha ucciso tre persone e ne ha ferite due nel Palazzo di Giustizia. Oggi in Tribunale c'è stata la commemorazione delle tre vittime. La folla era così tanta che si è accelerato l'inizio per motivi di sicurezza. La folla era così tanta che non solo l'Aula Magna, ma pure l'enorme salone era gremito nel momento in cui il Palazzo di Giustizia si è fermato per commemorare le vittime della strage. Un giudice, un avvocato, un cittadino. Tutte vittime di una sicurezza con troppe falle, ma pure dell'isolamento, accusa il presidente dell'ANM Rodolfo Sabelli. Alla rabbia che poi genera anche questi gesti bisogna dare una risposta. Le toghe dei giudici si mescolano a quelle degli avvocati e il vicepresidente del CSM Legnini torna a dar voce alla necessità di non lasciar soli i magistrati. C'è un dolore sobrio sulle poltrone dell'aula, il dolore della Milano civile evocata dal presidente della Corte d'Appello Canzio, che sa ricordare e ripartire una Milano che conosce il rischio che una crisi economica diventi crisi della ragione e che anche dopo una strage non vuole alzare alcun ponte levatoio, scandisce l'alta toga, che manda però un messaggio ai colleghi. Occorre che riflettiamo come cioè non perdere l'anima dei giudici. Non è tempo né spazio di rivendicazioni corporative o sindacali. C'è dolore, c'è orgoglio tra quelle toghe, senza intenzione di farsi intimidire, come il giovane avvocato ucciso, ricordato dalla mamma. E lui è morto perché non è stato una marionetta in mano a quella persona. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E vi dicevo, prosegue il dibattito sulla sicurezza dentro il Palazzo di Giustizia e non solo, perché ieri molti, anch'io compresa su Twitter, qualcun altro in altro modo, insomma, ha fatto l'associazione anche con l'Expo, che è imminente qui a Milano. Se non si riesce a controllare un Palazzo di Giustizia, come si farà a controllare tutta la città di Milano? Comunque, il dibattito continua. A Giardello sono stati sequestrati vari tesserini all'imprenditore killer, vari tesserini che aveva con sé, ma non è stata trovata questa tessera da avvocati col quale sarebbe entrato ieri. Intanto Filippo Lamanna, presidente del Tribunale di Novara, ma fino a qualche tempo fa capo del Tribunale fallimentare di Milano, dove ieri appunto è stato ucciso il giudice Ciampi, lancia un allarme. Le tensioni anche per la crisi sono aumentate e senza più strumenti situazioni così sono destinate, dice, a ripetersi. Lo ha intervistato Raffaella Calandra. Nessuno dei suoi colleghi le aveva mai riferito di episodi anche un po' così di tensione, un po' verbale con qualcuno? No, guardi, queste sono all'ordine del giorno. Ecco perché io le dicevo che c'è un clima di ostilità che è andato maturando, perché molto spesso arrivano personaggi un po' ai limiti, no? Che danno in escandescenza, che vorrebbero fare cose strane, poi vengono rabboniti quando si riesce in qualche modo a rabbonirli, ma oggi mancano gli strumenti per sanzionarli e per limitare con la forza anche dell'autorità, perché per esercitare giustizia ci vuole un apparato in grado di poterlo fare con mezzi adeguati. Se si pensa di poter continuare a utilizzare questo servizio senza mezzi, senza persone, senza risorse, evidentemente noi saremo sempre in queste situazioni che andranno ripetendosi o andranno addirittura moltiplicandosi. E poi parliamo anche di chi ha la responsabilità nella sicurezza dei tribunali italiani. Sentiamo. Il servizio di sicurezza interno nei palazzi di giustizia è affidato normalmente ai carabinieri ed è disposto sulla base di provvedimenti che competono al procuratore generale presso la Corte d'Appello. Il servizio di vigilanza esterno, invece, è di competenza dei comuni, spesso proprietari degli immobili, e possono appunto anche appaltarlo ai privati. Come spiega Maria Cristina Urbano, vicepresidente dell'Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari, non c'è un protocollo standard uguale per tutti. I requisiti sono definiti in sede di appalto. Bisogna quindi partire dal bando di gara. Il Comune di Milano, contattato, finora non ha fornito risposte sulla gara d'appalto, che è stata vinta da due società, la All System e la Secure Polis. La prima ha emesso un comunicato per spiegare che l'ingresso dal quale è entrato Giardiello non è presidiato e in carico a loro, ma di responsabilità di Secure Polis, i cui vertici non vogliono rilasciare per ora dichiarazioni. Quello che è accaduto a Milano era già avvenuto a Reggio Emilia. Era il 2007. Un uomo armato di pistola calibro 7,65 entrò nel Palazzo di Giustizia e fece 3 morti e 2 feriti. 8 anni dopo, la partita giudiziaria innescata dalla tragedia è tuttora aperta. Lo Stato, pur condannato in primo grado a risarcire con 600.000 euro i familiari delle vittime per mancata vigilanza, non ha ancora risarcito un euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vedo intanto i vostri messaggi sulla questione sicurezza, poi cominciamo un po' questo dibattito con un ospite più tardi. Continuate su Effetto Notte, la pagina Facebook, e anche attraverso i messaggi al 349-238-6666. Volevo darvi anche questa notizia di pochi istanti fa: l'autostrada Brebemi, che è stata una delle autostrade più contestate, più controverse, che è stata portata a termine di recente dopo tanto tempo di attesa, quella che attraversa Brescia, Bergamo e Milano. Bene, la notizia è che nei primi 5 mesi ha una perdita di 35 milioni di euro. Dopodiché passiamo alle notizie dall'estero. Stati Uniti, Barack Obama e Raul Castro, dopo essersi parlati al telefono mercoledì, dovrebbero incontrarsi domani, e quindi prosegue questo disgelo tra Stati Uniti e Cuba, che era iniziato qualche tempo fa, se n'era avuta notizia, insomma man mano questa cosa procede. L'altra notizia che vede gli Stati Uniti è che Hillary Clinton ha sciolto ogni riserva, si candida dunque a essere l'erede di Barack Obama dopo aver sfidato nelle primarie del 2008. Poi ci collegheremo, come dicevo, con gli Stati Uniti per qualche dettaglio in più. Di nuovo in Italia, al sud le pensioni di invalidità civile rappresentano il 22,96% del totale delle pensioni erogate nell'area, una percentuale che doppia rispetto al nord, e questo emerge dall'osservatorio INPS sulle pensioni con dati riferiti a fine 2013, ma emergono nuove tendenze anche sull'occupazione. Più lavoro stabile, meno posti precari. La qualità dell'occupazione migliora, ma alla fine il saldo è uguale a zero, e cioè il numero di occupati rimane invariato. Nelle tabelle dell'INPS sui rapporti di lavoro attivati nei primi 2 mesi dell'anno si legge infatti che i contratti a tempo indeterminato sono aumentati del 20,7% rispetto al 2014. Quelli a termine in apprendistato invece diminuiscono rispettivamente del 7 e dell'11,3%, portando così a zero la variazione dell'occupazione sul 2014, dati che si spiegano con l'impatto del provvedimento di decontribuzione scattato per il tempo indeterminato da inizio anno, il che avrebbe incoraggiato le imprese ad assumere. Per la CISL si tratta di un segnale positivo, per la UIL invece nessun motivo di gioia. Una volta venuti meno i vantaggi fiscali, dice il segretario Barbagallo, nessuno può garantire che le imprese non licenzino. Sempre dall'INPS arrivano altri dati che riguardano le pensioni. Quelle di invalidità civile al sud sono 1 su 4, una percentuale doppia rispetto al nord, e negli ultimi anni queste pensioni in totale sono aumentate di oltre 1 milione di unità. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La cronaca adesso: i carabinieri di Brindisi hanno arrestato 14 persone, tra cui Francesco Cascione, l'ex sindaco di Cellino San Marco, comune commissariato per infiltrazioni mafiose in Puglia. Avvocato penalista di Forza Italia, faceva capo a un'organizzazione che pilotava appalti e concorsi comunali in cambio di tangenti, coinvolta quasi l'intera giunta. Insomma, cose di ordinaria amministrazione, diciamo, purtroppo. E poi, a proposito di cose di ordinaria amministrazione, l'ennesimo femminicidio. È stato un omicidio-suicidio la scorsa notte ad Agrigento, in Sicilia, in una palazzina nel quartiere Fontanella. Un uomo di 57 anni che non accettava la fine del matrimonio durato 35 anni, la solita causa, ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 48 anni e poi ha rivolto l'arma contro se stesso. Al momento della tragedia in casa c'era la figlia 17enne della coppia. Per chiudere lo sport, Formula 1, col Gran Premio di Shanghai, Hamilton è stato il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere. Il britannico della Mercedes ha preceduto il finlandese della Ferrari Raikkonen, quarto l'altro ferrarista tedesco Vettel. E poi per il calcio, oggi si è tenuta l'assemblea della Lega Serie A. Tra le novità emerse, l'annuncio del presidente Maurizio Beretta: introdurremo la tecnologia in campo. Si chiama Occhio di Falco ed ora in poi in Italia vigilerà sulle partite di calcio. L'obiettivo è evitare i cosiddetti gol fantasma e le polemiche che ne derivano contro gli arbitri, i calciatori, i club e così via. Un sistema di telecamere stabilirà con certezza se la palla ha varcato o meno la linea di porta, grazie a una serie di sensori sistemati sui pali. Il tutto sarà collegato all'orologio dell'arbitro. La tecnologia, utilizzata da Premier League e Bundesliga, debutterà nella finale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio il prossimo 7 giugno, Champions permettendo. E poi dal prossimo campionato, ha annunciato il numero uno della Lega, Maurizio Beretta. Sempre oggi è arrivata un'altra rivelazione, questa volta dal patron del Napoli, De Laurentiis. Sono in Lega a lavorare con gli altri su un progetto per portare la prima giornata di Serie A della prossima stagione in 10 città diverse del mondo, ha annunciato De Laurentiis. Un'idea ridimensionata però dallo stesso Beretta. Sono state messe sul tavolo molte idee, ma al momento non abbiamo preso ancora alcuna decisione, ha detto. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di aggiornare chi viaggia, vorrei leggere qualche messaggio dei vostri che stanno arrivando tra la pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666. Per esempio, Sergio da Milano dice, a proposito delle polemiche sulla sicurezza scattate da ieri: ci vogliono più controlli in tutto e per tutto, ma più controlli sul vero senso della parola, non con il cellulare in mano. Ormai si vive come nella giungla, non esistono più regole, si è lasciato correre troppo. Poi un altro messaggio: i sistemi di sicurezza nei tribunali ci sono, ma dato che siamo in Italia, chi dovrebbe farli utilizzare non lo fa. Le leggi ci sono, ma l'anarchia è totale. Anche se leggevo che il Tribunale Civile di Roma non ha nessun controllo, può entrare chiunque, poi magari ne parliamo. E poi un singolo pazzo, dice un altro messaggio, non può essere bloccato se vuole compiere una strage. Vale per Lubitz, appunto il pilota della Germanwings, e vale per l'imprenditore Brianzolo. Poi Gianluca, avvocato, dice: massimo rispetto per le vittime della tragedia di ieri a Milano, ma perché non parliamo anche dei problemi della giustizia che hanno causato questo gesto folle da parte di un soggetto che non era un criminale? Mi stupisce un po' Gianluca, avvocato, perché mi sembra strano, era imputato, poi non lo so, a questo punto mi sembra che sia imputato per ben altre cose, di bancarotta fraudolenta, quindi non so cosa c'entrasse la giustizia nei suoi confronti. E dici non era un soggetto criminale, ma uno che si porta dietro la pistola con questa premeditazione, con questa freddezza, va a cercare le persone giuste da ammazzare, se non è un criminale lui. Tra poco vi aggiorno di nuovo sulle notizie, stanno arrivando molti messaggi. Per esempio questo, a proposito della Brebemi, perché vi leggevo poco fa questo aggiornamento sulla autostrada Brescia-Bergamo-Milano, dice: la sto percorrendo ora ed è fantastica, felice di pagare 30% in più della Milano-Venezia, magari per ammortizzare i costi un annetto non basta, perché vi dicevo ci sono perdite per 35 milioni di euro, così da poco è stata inaugurata. Adesso andiamo però anche sulle altre notizie. DEF, documento di economia e finanza, che si sta discutendo in Consiglio dei Ministri, dal tesoretto, che sarebbe di 1,5 miliardi, potrebbe esserci appunto delle risorse per il welfare, per lo Stato sociale. Renzi vuole le ultime limature al testo, Brunetta accusa di comprarsi le regionali come fece per le europee. Dice: il killer del tribunale rischia l'incriminazione per strage, avrei ucciso ancora, ha detto Giardiello, i giudici dicono troppa rabbia su di noi. E poi il disgelo tra Stati Uniti e Cuba, Obama a Panama incontra Raul Castro, dovrebbe incontrare domani, per le presidenziali 2016 c'è la candidatura ufficiale di Hillary Clinton. E poi la bufera sul Front National, qui siamo in Francia, Marine Le Pen indagata per finanziamenti illeciti, lei dice un attacco politico, il padre minaccia battaglia. Il Consiglio di Stato in Italia dice no all'eterologa tutta a pagamento, come succede in Lombardia, infatti è stata sospesa la delibera della Lombardia su costi perché, dice il Consiglio di Stato, c'è disparità con l'omologa e quindi discriminazione. Cirio, è stata confermata in appello la condanna per Geronzi a 4 anni, il lieve sconto di pena invece a Cragnotti 8 anni e 8 mesi. E poi il calcio, la Serie A sceglie l'occhio di falco contro i gol fantasma, c'è l'annuncio di Beretta, debutto dell'occhio di falco nella finale di Coppa Italia. E poi a Cannes, Festival di Cannes, Isabella Rossellini sarà la presidente della sezione Un Certain Regard, attrice e regista italiana, e renderà omaggio alla mamma Ingrid Bergman. Ora invece omaggiamo il nostro Salvatore Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Chicco. Ciao, buonasera. E parliamo del DEF che il Consiglio dei Ministri sta discutendo, dovrebbe vararlo, questo documento di economia e finanza che serve a programmare i prossimi 3 anni, no, se non sbaglio, sì, di, ecco, esattamente, dell'economia italiana, entrate, uscite, e sembra che abbia rimandato Renzi, probabilmente dice per limature, per aggiustare qua e là, e che sia venuto fuori da un qualche cilindro questo 1,5 miliardi per lo Stato sociale, quindi sarebbe una buona cosa. Poi c'è l'opposizione però, con per esempio in testa Brunetta di Forza Italia, che dice in questo modo Renzi, come fece per gli 80 euro, dice siccome nei sondaggi sembra che sia un po' sceso il consenso, vuole comprarsi le regionali, cioè le elezioni regionali che ci saranno a breve. Sì, vediamo un po' come andrà, come si concluderà il Consiglio dei Ministri, certo, che devo dire è cominciato alle 8:30 e non si è ancora concluso. La novità di oggi, i macronumeri del DEF erano abbastanza noti, se ne è parlato molto nei giorni scorsi. La novità di oggi pomeriggio è esattamente questo tesoretto, questa dote aggiuntiva di 1,5 miliardi che si scoverebbe un po' tra le tabelle e tabelline che compongono il programma di stabilità del DEF. Quindi sono dei soldi che avanzano, incredibilmente. Sono dei soldi più che in realtà non è che avanzano, diciamo che il governo si era tenuto cauto sulle previsioni diciamo di spesa del 2015, l'anno in corso, e a questo punto dell'anno si ipotizza, si prevede che da qui a fine anno si potrà diciamo mettere a segno un ulteriore risparmio di 1,5 miliardi, appunto. Da qui l'idea che circolava, anche se non è ancora ufficiale, però insomma, di destinare questo 1,5 miliardi, chiamiamolo aggiuntivo, nel senso di risorse che si sono liberate, insomma, di destinarlo a interventi da effettuare, diciamo, grosso modo nell'area del welfare. Qualcuno dice che un'ipotesi potrebbe essere quella di estendere il famoso bonus di 80 euro anche ai contribuenti incapienti, che è insomma una parola un po' difficile, però vuol dire che sono quei contribuenti che guadagnano tanto poco da non pagare neppure le tasse, per cui non hanno diritto, diciamo, a nessun, tra virgolette, rimborso d'imposta non pagando nessuna tassa. In questo modo, diciamo, gli 80 euro potrebbero, o una misura equivalente, potrebbero andare anche a loro. Qualcun altro dice che si potrebbe invece, che si starebbe invece pensando a un intervento sulla povertà, quindi una cosa simile al reddito di cittadinanza che da tempo propone il Movimento 5 Stelle. Qualcun altro ancora dice che Poletti starebbe lavorando a un piano antipovertà. Insomma, ci sono un po' di ipotesi allo studio, adesso vedremo, tra poco immagino riusciremo anche a capire un po' meglio come verranno utilizzate queste risorse aggiuntive. Attendiamo dunque il termine di questo Consiglio dei Ministri. Grazie intanto, Chicco Padula. Grazie a te, ciao. Ciao Chicco. Ciao, ciao. E torniamo a parlare quindi della strage avvenuta ieri nel Tribunale di Milano, perpetrata, lo sapete ormai, da un imprenditore, Claudio Giardiello, imputato per bancarotta fraudolenta, il quale ieri attorno alle 11 di mattina ha esploso 13 colpi, ucciso 3 persone e ne ha ferite 2, scatenando poi il caos all'interno del Tribunale. Quindi c'è stato sconcerto generale per questo gesto folle, dolore per le vittime naturalmente. Risentiamo in un passaggio un po' più ampio la mamma del giovane avvocato ucciso, una delle tre vittime, Lorenzo Appiani, che era stato legale di Giardiello, poi aveva preferito rinunciare alla difesa dello stesso e ieri era lì come teste. Sentiamo. Quando Lorenzo ha giurato, il discorso di accoglienza nella sua nuova professione lo fece l'avvocato Biagi. E mi ricordo che tutto il discorso era: voi non dovete fare i ventriloqui, voi dovete avere la vostra testa, dovete decidere non perché il cliente vi dice che cosa deve fare, ma voi dovete fare quello che è giusto per il cliente, non dovete essere delle marionette nelle sue mani. Lorenzo ha detto: mamma, questo discorso mi piace tantissimo, così io farò. E lui è morto perché non è stato una marionetta in mano a quella persona. Quindi dolore, sconcerto e poi le varie considerazioni che si sono susseguite appunto sul luogo specifico, simbolico, dove è avvenuto tutto questo. A questo proposito sentiamo cosa ha detto ieri qui in diretta effetto notte, appena atterrato a Milano, era appena atterrato in serata, Rodolfo Sabelli, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Non si può neanche liquidare questo episodio come un atto individuale, punto e basta, perché un problema di ruolo della giurisdizione e di riconoscimento di coloro che partecipano della giurisdizione. Non dimentichiamo, è stato ucciso un magistrato, ma è stato ucciso anche un avvocato, sono stati colpiti anche dei cittadini che erano coinvolti in un processo, persone che si trovavano all'interno di un palazzo di giustizia. Un palazzo di giustizia che è l'antitesi della violenza. Il palazzo di giustizia è il luogo dove la violenza non solo è bandita, ma addirittura è il luogo dove i contrasti devono trovare la loro composizione e le liti si devono sciogliere. Quello che è accaduto è terribile anche sotto questo aspetto, e sotto questo aspetto una riflessione si impone sul riconoscimento che tutti tutti danno, istituzioni, cittadini danno del ruolo della giurisdizione e della funzione che svolgono tutti coloro che partecipano alla funzione giudiziaria, i magistrati, gli avvocati, il personale amministrativo. E credo che questo sia un tema di riflessione che si impone a tutti. Questa è la riflessione di Sabelli, presidente dell'ANM, però le maggiori polemiche, vi dicevo, sono sulla questione della sicurezza. Cioè Giardiello ieri è riuscito a entrare in tribunale con una pistola, lo ha potuto fare perché è passato da un'entrata laterale del tribunale, che è quella riservata a avvocati e magistrati, sembra mostrando un tesserino falso, in realtà poi gli hanno requisito tutti i tesserini e non c'era un tesserino d'avvocato, quindi avrà mostrato un tesserino qualunque, non lo so. Ha poi sparato due persone nell'aula in cui c'era l'udienza, è riuscito poi, dal terzo piano, è riuscito a scendere al secondo piano, a sparare per le scale a una persona, andando poi a cercare la stanza di un giudice che riteneva colpevole delle sue disgrazie, ha trovato la stanza, è entrato e lo ha freddato. Ha avuto poi il modo di sparire per un po' dentro il tribunale, riuscendo infine a uscirne, a prendere il suo scooter e allontanarsi di 30 km, perché come lui stesso ha detto ai carabinieri quando l'hanno arrestato, voleva andare a uccidere un'altra persona, il suo ex socio, e lo hanno fermato giusto in tempo. Quindi come è stato possibile tutto questo? Ci sono state delle falle nelle misure di sicurezza? Sentiamo a questo proposito cosa ha detto ieri in conferenza stampa il ministro della giustizia Orlando. Possiamo evincere una cosa, che i sistemi di sicurezza tecnologici erano funzionanti, ma evidentemente, e questo le indagini ci dovranno, su questo le indagini ci dovranno chiarire non pochi elementi, il sistema nel suo insieme ha visto il compiersi di errori gravi, su cui appunto le indagini a cui chiediamo, abbiamo chiesto ai capi degli uffici di operare con la massima rapidità. E su questo coinvolgo Maurizio Fiasco, sociologo specializzato in sicurezza pubblica. Buonasera Fiasco. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei di aver dato la disponibilità. Quindi lei che idea si è fatto di tutto quello che è successo? Un deficit di cultura gestionale della sicurezza molto grave, che riguarda purtroppo molti territori, molte situazioni del paese. Mi spiego meglio, la sicurezza sembra essere affidata a delle operazioni che in se stesse sono banali. Essendo delle operazioni banali e di routine, le abilità e la qualità del servizio tende a scendere. Viceversa, l'aggressore è colui che prende l'iniziativa, quindi si mette in una intelligenza attiva e quindi percepisce e coglie rapidamente le falle in un sistema di sicurezza. Il Tribunale di Milano, c'erano, da quello che si legge, dei servizi anche molto numerosi, anche molto onerosi, sia della vigilanza privata che della sicurezza pubblica. Poi c'è il flusso di utenti molto consistente nell'arco della giornata, quindi è evidente che l'insidia maggiore è data dalla routine. L'operatore che si trova nella postazione che può essere la falla di un sistema di sicurezza di solito fa questa azione routinaria in una condizione di demotivazione e non c'è un modello di qualità del servizio che non sia basato sulla semplice attività ispettiva. In realtà noi abbiamo bisogno di una intelligenza attiva nelle situazioni. Chi fa sicurezza, anche se compie la mansione più semplice, più banale, più elementare, in realtà lì deve essere sollecitato ad attivare il meglio di se stesso come perspicacia, come responsabilità, come appunto intelligenza attiva. Solo così possiamo recuperare il divario che c'è tra il delinquente che prende l'iniziativa e quindi l'intelligenza già la tiene, come dire, su di giri, e invece un sistema di sicurezza che ha come nemico mortale proprio il tempo, la routine, la noia, l'abbassamento della tensione o anche i mille piccoli conflitti che si registrano con gli utenti, che possono essere infastiditi nel sottoporsi alle misure di sicurezza. Poi c'è un aspetto psicologico più generale. Noi tendiamo ad allontanare la cognizione di una minaccia, perché sapere che in un luogo può esserci un pericolo ci destabilizza, ci provoca ansia. E quante volte ci rifiutiamo di compiere le operazioni elementari di mettere in sicurezza la nostra casa, uno spazio, una struttura, un servizio? chi ci sollecita che lì può esserci un varco, una minaccia, un rischio, lo percepiamo con molta antipatia, perché ci riporta una sgradevole, ci riporta a coscienza una sgradevole realtà, cioè che il mondo che noi vorremmo giusto e sicuro è costellato di rischi, come è normale che sia in un ambiente umano. Maurizio Fiasco, allora ci sono vari messaggi sia alla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666 che si dividono tra chi dice che appunto ci vorrebbero molte più misure di sicurezza, più serie, gente più preparata, tecnologia migliore, e poi c'è chi dice no, non possiamo, leggo, vivere blindati nella paura, anzi non bisogna farsi intimidire, i troppi controlli accentuerebbero tali paure impedendo il normale svolgimento dell'attività. Per esempio, oggi dopo quello che è successo al Tribunale di Milano, file per entrare perché hanno cominciato quasi a spogliare la gente, metal detector eccetera, quindi dove si può, dov'è il limite tra le misure giuste, quelle che in realtà impediscono lo svolgimento normale dell'attività e magari certamente non riescono a individuare la scheggia impazzita, no? Perché... Mi scusi, questo modo di porre il problema è uno schema consueto ma anche abbastanza ottuso. Non è detto che il sentimento di paura coltivato generi una maggiore protezione, come l'antitesi tra libertà e sicurezza non è che necessariamente per essere più sicuri dobbiamo rinunciare alla libertà. In mezzo che cosa manca? Manca la responsabilità attiva, manca la qualità del servizio, manca quella che nei paesi anglosassoni si chiama accountability, cioè una responsabilità del pubblico, una responsabilità dell'operatore, una responsabilità sociale condivisa, cioè la sicurezza è un prodotto comune. Non è un bene che si compra sul mercato o che si può affidare a dei dispositivi, è il prodotto di una responsabilità comune di persone che liberamente si sono associate e vivono in una città, in una società, in un paese libero. Fiasco, prima di chiudere le chiedo una cosa, naturalmente lei non credo che conosca nel dettaglio la situazione, però magari rispetto all'Expo, no, che sarà è alle porte qui a Milano, praticamente il 1° maggio inizia, neanche un mese, lei pensa che ci siano approntati sistemi di sicurezza sufficienti, adeguati, o anche approntando tutti quelli del mondo, alla fine la persona che si butta in mezzo alla folla non è che la si può prendere. Bisogna costruire una motivazione, cioè la sicurezza è affidata alla motivazione di chi si sente impegnato a garantire il libero svolgimento di un evento. Come si lavora sulla motivazione? Con la dignità della funzione di chi fa sicurezza, con il mandato, che è un mandato che viene dall'alto, cioè dall'organizzazione, dalla gerarchia, dalle istituzioni, ma anche un mandato che viene dal basso, cioè dai cittadini che vorranno da tutti i paesi utilizzare questa grande opportunità dell'Expo. Cioè ci vuole un modello intelligente di sicurezza, e questo modello intelligente non ce lo dà né l'hardware, cioè telecamere, sistemi, metal detector, né il software che fa funzionare questi sistemi. Questo modello intelligente ce lo dà la motivazione, la qualità del servizio, le verifiche della qualità del servizio, un clima culturale e morale che fa da cemento o da collante sia per chi utilizzerà l'occasione dell'Expo sia per chi nell'Expo dovrà svolgere un lavoro. Chiarissimo. Si crea questo spazio motivazionale condiviso, oppure è chiaro che il livello di sicurezza più di tanto non si potrà innalzare. Maurizio Fiasco, è stato molto chiaro, e poi ritorneremo naturalmente anche su questi argomenti man mano. Roberta Giordano sempre con voi dalle notizie principali di oggi. Il documento di economia e finanza che il Consiglio dei Ministri deve varare sta discutendo in queste ore, e ci dovrebbe essere come elemento principale questo tesoretto da 1,5 miliardi per il welfare, per lo Stato sociale. Poi la strage al Tribunale di Milano, domani ci sarà l'interrogatorio del killer, ne abbiamo appena parlato, della polemiche sulla sicurezza, i magistrati intanto dicono paghiamo l'isolamento. E poi fecondazione eterologa, il Consiglio di Stato blocca la delibera della Lombardia, ne parliamo tra pochi istanti. Appunto, è passato un anno da quando era il 9 aprile 2014, oggi è il 10 aprile, quindi quasi esattamente un anno da quando la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto che era vigente nella legge 40 in Italia di accedere alla fecondazione eterologa, cioè quella in cui si ricorre a gameti esterni alla coppia, quindi a ovuli e spermatozoi che non appartengono alla coppia. Il Consiglio di Stato, a un anno di distanza, oggi ha sospeso in via cautelare la delibera della Regione Lombardia, che unica regione in Italia stabilisce che il cittadino debba pagare interamente questo servizio e non solo il ticket, come avviene invece nelle altre regioni, un ticket che sarebbe più o meno di 500 euro, mentre la regione Lombardia fa pagare 3.500 e 4.000 euro. I giudici hanno ritenuto valida la posizione dei ricorrenti, che evidenziavano che c'era una disparità di trattamento, quindi un elemento discriminatorio. Abbiamo cercato l'assessore alla salute della regione Lombardia, Mario Mantovani, non ha dato però la sua disponibilità. Apparsa oggi una nota poi nel pomeriggio della regione Lombardia in cui c'è scritto: prendiamo atto dell'odierna ordinanza del Consiglio di Stato, ma difenderemo le nostre scelte al TAR. Ne parliamo con l'avvocata Filomena Gallo. Buonasera avvocata. Buonasera. Che è anche segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni. Già c'erano state polemiche su questa scelta della Lombardia, adesso il Consiglio di Stato ha preso questa decisione. La stessa ministra della Salute Beatrice Lorenzin dice che non la stupisce, perché effettivamente doveva rientrare in un servizio da ticket, no? Per tutte le regioni uguale. Ma sicuramente, anche perché all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale, che ha eliminato il divieto di eterologa, affermando un principio di uguaglianza, il diritto alla salute, il diritto ad avere una famiglia, introdurre solo per motivi politici, ideologici, e sappiamo bene che la politica cielina cerca di introdurre nuovi deterrenti su questi temi, e quest'atto ha voluto creare un deterrente. Non c'è differenza nell'accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita. Se io sono una coppia infertile posso accedere nel pubblico e pagare un ticket, se la mia patologia di infertilità è più grave, che determina sterilità, a quel punto devo pagare per la tecnica. Quindi è palese la discriminazione. È su questa motivazione che il Consiglio di Stato oggi ha rinviato nuovamente la problematica dinanzi al Lombardia. Naturalmente dobbiamo comprendere le coppie che all'indomani delibera lombarda hanno deciso di ricorrere contro questa delibera, perché il limite economico non deve essere un limite a dover che ti limita nella scelta in materia genitoriale. Normalmente le coppie, se possono accedere a queste tecniche nelle strutture private, pagare l'intero costo, lo fanno. Se accedono nel pubblico devono avere le stesse garanzie e tutele che hanno le coppie infertili. E prevedere un ticket così alto comunque crea un deterrente che più delle volte può far desistere anche dall'accedere a tecniche del genere. Per questo appunto c'è stata questa sospensione della delibera della Lombardia da parte del Consiglio di Stato. La Lombardia dice: ricorreremo al TAR, si vedrà come finirà questa vicenda. Intanto la ringrazio, avvocata Filomena Gallo. Grazie. Grazie a voi. Rieccolo molto brevemente, siete acceso la radio in questo momento. Il Consiglio dei Ministri sta per varare il DEF, documento di economia e finanza. Dentro ci sarebbe questo tesoretto da 1,5 miliardi per il welfare. Renzi vuole le ultime limature al testo. E poi il killer del Tribunale di Milano rischia l'incriminazione per strage. Avrei ucciso ancora, ha detto. Disgelo tra Stati Uniti e Cuba. Obama a Panama incontra Raul Castro. E poi Hillary Clinton dovrebbe annunciare domenica ufficialmente la sua candidatura alle presidenziali 2016. Il Consiglio di Stato, l'abbiamo appena detto, dice di no all'eterologa tutta a pagamento, secondo la delibera lombarda, che è stata quindi sospesa, disparità con l'omologa. Questa è la motivazione del Consiglio di Stato. E poi per chiudere la notizia di sport, la Serie A sceglie l'occhio di falco contro il gol fantasma, debutterà nella finale di Coppa Italia. Velocissimamente ritorno sui vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito delle polemiche sulla sicurezza dopo la strage di ieri Palazzo di Giustizia di Milano. Giorgio dice: forse bisogna migliorare con l'utilizzo di tecnologie migliori e più elevata preparazione, solo se serve realmente, niente psicosi per un singolo, per quanto gravissimo fatto. Nadia: questo evento è lo specchio di una situazione sociale disperata. Marco: esiste una legge che prevede l'uso di guardie giurate in determinati luoghi, queste dovrebbero essere formate usando specifiche ministeriali mai definite. Il Tribunale di Milano, dopo un esposto, sentenziò che potevano essere usati gli operatori della sicurezza senza decreto prefettizio. Cristiano dice: un occhio più attento certamente in vista dell'Expo ci vorrà, nonostante mi chieda in quella ressa curiosa che ordine possa mai stabilire fra sgomitate, stand stracolmi, code lunghissime, eccetera, avanti, indietro. Ma adesso trasferiamoci direttamente negli Stati Uniti con il nostro Marco Valsania, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Ciao Marco. Ciao. Due notizie grosse. Allora, intanto il disgelo che prosegue man mano tra Stati Uniti e Cuba, perché domani ci dovrebbe essere l'incontro tra Obama e il presidente cubano Raul Castro. Già i ministri degli esteri si sono stretti la mano, no? Reciproci. Sì, esattamente. La Casa Bianca ha confermato che domani, ai margini del vertice, Obama e Raul Castro si vedranno un faccia a faccia che diventa storico automaticamente, perché è la prima volta che due leader, i leader di due paesi, si vedono in oltre 50 anni. L'ultimo presidente a essersi seduto con un leader cubano era stato Dwight Eisenhower, e il leader cubano allora era Fulgencio Batista. Figuriamoci, mamma mia. Lasciato da Fidel. Ma parliamo di secoli fa praticamente. E quindi domani vedremo questo incontro come va, insomma. Comunque pare che gli auspici siano tutti, le aspettative e le prospettive tutte positive. L'altra grossa notizia è che Hillary Clinton ha deciso, domenica ci sarà l'ufficializzazione, ma già la notizia è trapelata, di candidarsi come erede successora, insomma, di Obama alle presidenziali 2016. Sì, così è, esatto. Obama cerca di rivendicare un successo di politica estera con questo disgelo a Cuba, e intanto Hillary si presenta ufficialmente candidata alle presidenziali domenica, affidando probabilmente il primo annuncio a Twitter e ai social media, e poi partendo per l'Iowa. Ecco, detto questo, Hillary diventa automaticamente il frontrunner per la campagna per il 2016, ma non senza problemi e difficoltà. Uno di questi proprio le polemiche sulla politica estera, sull'efficacia della politica estera di Obama e della stessa Clinton, che è stata appunto a lungo il suo segretario di Stato, ma anche così la pesante eredità della dinastia dei Clinton e così l'affaticamento dell'elettorato per comunque un nome già noto. Mentre i repubblicani cercano intanto di sfoderare volti più nuovi. Lunedì, quindi il giorno dopo l'annuncio della Clinton, ci sarà l'annuncio di un nuovo candidato repubblicano, Marco Rubio, giovane senatore della Florida, moderato, e che potrebbe anche attirare il voto, diciamo, delle minoranze ispaniche finora sfuggite ai repubblicani. Nonostante sia repubblicano, perché di solito, storicamente, no, le minoranze ispaniche sono verso i democratici, di solito, o no? Esatto, certo, no, di solito, esatto, votano solidamente per il Partito Democratico. I repubblicani hanno sempre fallito nel tentativo di attirare le minoranze democratiche. Questa volta potrebbero cercare di farlo con alcuni candidati più moderati, quali Jeb Bush o quali Marco Rubio, che è vicino alle posizioni di un Jeb Bush. Rimane da vedere se ci riusciranno davvero, perché poi la base del Partito Repubblicano è molto dura sul fronte dell'immigrazione, molto contraria a aperture sull'immigrazione, e quindi potrebbe condizionare pesantemente i candidati del partito in senso ultraconservatore. Fra l'altro, questi pochi secondi che ci rimangono, Marco, mi pare che la Clinton abbia anche dei critici a sinistra, no? Assolutamente. L'altro problema della Clinton è che, oltre ai critici di destra, ha una fronda di sinistra piuttosto consistente nel Partito Democratico, che vorrebbe un candidato meno centrista, meno pro-business, meno vicino a Wall Street e più paladino dei ceti medi, dei ceti più poveri. Per questo sono state lanciate anche così campagne dal basso per cercare di convincere una senatrice, Elizabeth Warren del Massachusetts, a candidarsi. Finora lei ha resistito. Elizabeth Warren, ricordiamo, bestia nera di Wall Street, grande critica delle banche. Potrebbe scendere in campo di fronte a un affanno della Clinton anche lo stesso Joe Biden, il vicepresidente, che per ora tiene in disparte, ma lui ha un'anima sicuramente più populista della Clinton e potrebbe quindi far appello a un elettorato più di sinistra. Grazie caro Marco Valsania, salutaci a New York. Ciao Marco. Grazie a voi. Direi che è il momento, sì, di salutarci. C'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi, mi raccomando, approfittatene, ci riaggiorniamo giusto tra qualche istante.